America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The danger for the world is that the United States, after a decade of war, rightly concerned about issues back home, aware of the hostility that our engagement in the region has engendered throughout the Muslim world, may disengage, creating a vacuum of leadership that no other nation is ready to fill. Barack Obama, grande discorso alle Nazioni Unite, ieri il discorso di apertura, un discorso in cui ha risposto alla provocazione di Putin, per esempio sull'eccezionalità americana. La nostra leadership, ha detto Obama, serve a tutti, non serve soltanto a noi. La comunità internazionale spesso non è all'altezza di reagire a situazioni di soprusi, come dire, è inutile nasconderci dietro un dito, inutile lasciarsi a questa retorica facile, quella che ha usato il presidente russo Putin nell'articolo che ha pubblicato sul New York Times. Ma soprattutto Obama ha aperto all'Iran alla possibilità che si possa negoziare qualche cosa su questo programma nucleare iraniano, di modo che ci sia la garanzia che sia un programma pacifico, energetico e non mirato alla costruzione di una bomba atomica. Thank you very much. I'm very glad to be here, and I will try to address about a very a general. Enrico Letta, il presidente del Consiglio, lo sentite, ha parlato in inglese, è intervenuto al Council on Foreign Relations ieri mattina, un intervento a tutto campo, soprattutto sull'economia. Certo, si è parlato anche di missioni di pace, si è parlato di Siria, si è parlato un pochino di Medio Oriente, ma il filo conduttore del suo intervento, anche per il là che gli ha dato il moderatore che si chiama Gene Zirin, che è un avvocato di New York, il filo conduttore è stato economico, è stato legato alle riforme economiche. E in questa occasione, dico in questa perché poi il Presidente del Consiglio ha avuto altri due appuntamenti importanti nel corso della giornata, a parte quelli alle Nazioni Unite, gli incontri bilaterali, eccetera, eccetera, cioè un incontro al New York Times, un incontro da Bloomberg con degli investitori. Ma al Council, ieri mattina, in questo intervento, di fatto, Letta ha confermato che si troverà una soluzione al cuneo fiscale, una forte riduzione del costo del lavoro per appesantire la busta paga del lavoratore, quindi renderla un po' più cospicua, con più denaro in busta paga. Si cercherà di diminuire il costo per le aziende, dunque alleggerire la pressione sulle aziende, con l'obiettivo che deriverà da queste due iniziative di rilanciare i consumi. Ecco, questo progetto sarà annunciato il 15 di ottobre. Nel frattempo, già venerdì, il Presidente del Consiglio lancerà invece una misura a tampone per evitare che il disavanzo sul PIL vada a superare quel tetto del 3%. Ci saranno misure di vario genere. Devo dire, ho fatto una domanda al Presidente del Consiglio perché ero preoccupato su una cosa. Dunque, si dice che venerdì il Presidente del Consiglio annuncerà la vendita, la dismissione di un certo patrimonio immobiliare. Questo patrimonio immobiliare dovrebbe servire a recuperare il denaro per evitare di aumentare l'IVA di quell'1% e quindi di stringere i consumi e invece di risolvere il problema del disavanzo. Ecco, qual è il mio problema in tutto questo? Che le dismissioni dovevano servire a ridurre il debito, non il disavanzo. Su questo il ministro Saccomanni, proprio qui ai microfoni di America 24, non più tardi di un paio di mesi fa, quando ancora, devo dire, non era ministro, era stato molto chiaro: bisogna trovare la formula per far sì che le dismissioni, gli introiti delle dismissioni, vadano a risolvere il problema, o comunque a diminuire il problema del debito. Ecco, su questo però Letta non mi ha voluto rispondere. Gli ho fatto una domanda molto precisa, ha detto una risposta questa che richiederebbe forse 20 minuti di conversazione e quindi in questo momento non posso darla, ma poi mi ha rimandato appunto da questo appuntamento più a breve termine di venerdì all'appuntamento di medio termine del 15 ottobre, dove dice nel contesto di quel piano noi siamo certi che i mercati recepiranno. Il Presidente del Consiglio vuole tenere i tassi di interesse attorno al 4% entro la fine dell'anno, tra il 3 e il 4% per l'anno prossimo. Sono livelli che dovrebbero consentire di migliorare di molto il servizio sul debito e dunque il disavanzo, dovrebbero aiutare l'economia. Crescita, avremo, ha detto al Council, un tasso di crescita positivo per la fine dell'anno, quindi per l'ultimo trimestre del 2013, e il 2014 sarà tutto in territorio positivo, sarà tutto in crescita. Sto facendo in queste ore incontri con investitori internazionali che guardano all'Italia. Guardano all'Italia ovviamente con un punto interrogativo, vogliono capire se è un paese stabile e le cose che si dice sono cose che poi si fanno oppure no. E quindi io porto il piano Destinazione Italia, porto l'impegno delle riforme, le riforme strutturali, le riforme che stiamo facendo, che abbiamo fatto, che rendono il nostro paese un paese con i conti strutturalmente a posto, è un paese che può creare occupazione, un paese che può creare crescita. Alla fine dell'anno avremo il tasso più sulla crescita e l'anno prossimo avremo una crescita positiva. Ovviamente tutti mi chiedono se ci sarà stabilità perché questo avvenga e io per la mia parte dico che io ce la metterò tutta a far sì che ci sia stabilità, perché dalla stabilità della politica dipende il successo del paese e dipende anche il successo dell'Unione Europea, che è uscita dalla crisi e ha bisogno oggi di continuare su queste politiche di stabilità. Avete sentito di nuovo il Presidente del Consiglio in un momento di un incontro stampa che abbiamo avuto con lui, e questo è successivo all'incontro da Bloomberg. E Bloomberg è stato un incontro molto importante, c'era il segretario al tesoro americano Jack Lew, c'era Carlos Slim, il miliardario messicano, l'uomo più ricco del mondo, c'era George Soros, c'era Steven Schwarzman, fondatore di Blackstone Group, c'era Lloyd Blankfein, il presidente e amministratore delegato di Goldman Sachs, insomma c'era il gota della finanza internazionale mondiale. Ma la domanda che interessava questa audience era un'altra: che stabilità ha questo governo? Al di là dei piani, dei progetti di Destinazione Italia, che sono tutte bellissime idee, se poi cade il governo, continua ad esserci questa instabilità, insomma, quella prevale su tutto, perché ovviamente non ci sarà nessuna misura interessante al punto da sconfiggere il caos. Infine, terzo intervento su Telecom Italia, sentiamolo. Ma ovviamente valutiamo, siamo in un mercato europeo, quindi bisogna considerare le cose così. Telecom è una società privata e quindi vigileremo perché ci sia il massimo di attenzione sui profili occupazionali e su tutti gli aspetti strategici per l'Italia. Dopodiché vorrei ricordare a tutti quelli che stanno parlando in questo momento che Telecom è stata privatizzata. Di tutte le privatizzazioni italiane credo che non sia stato uno dei più grandi successi, quindi anche se arrivassero dei capitali europei, credo che questi capitali europei potrebbero aiutare Telecom a essere migliore di come è stata in questi 15 anni e credo che dobbiamo considerare le cose anche da questo punto di vista. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandate i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, sembra che la mano tesa per l'amicizia stia funzionando. La mano tesa fra Iran e Stati Uniti, la mano tesa con la Russia, l'idea che la Siria forse possa fare qualche passo in avanti che vada al di là del semplice disarmo chimico e magari si possa trovare una tregua, la mano tesa del nostro Presidente del Consiglio agli investitori americani che a loro volta amichevolmente gliela restituiscono. Insomma, a queste Nazioni Unite in questa settimana a New York l'atmosfera è soprattutto amichevole più che astiosa, come l'abbiamo vista in passato. E dunque dedico la canzone del giorno a James Taylor, You've Got a Friend. See you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!